Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Ci massacrano, dicono i piloti all'Italia, da loro e dagli assistenti di volo un no al piano per l'azienda, irricevibile. Nell'anniversario dell'armistizio la memoria divide ancora, la Russa ricorda i caduti di Salò e dopo le parole di Alemanno sul fascismo, Veltroni lascia il comitato per il museo della Shoah. Inizia la scuola, almeno in Lombardia, ma tra frizioni nel governo, Bossi contro il maestro unico, la Gelmini replica mentalmente confuso. L'America nazionalizza il mercato, festeggia i colossi dei mutui, Fannie Mae e Freddie Mac diventano totalmente pubblici. Borsa in rialzo. Oggi l'incidente probatorio per la Sanitopoli abruzzese. La difesa di Del Turco vuole la ricusazione del GIP. Ancora morti sul lavoro, due operai nel Bresciano perdono la vita schiacciati da un muro. L'uragano Ike arriva sulle coste cubane. 1 milione le persone evacuate e tra 1.500 e 2.000 gli italiani presenti sull'isola. Finito il Festival del Cinema, il film di Ozpetek è secondo al botteghino. Grande successo anche in sala per il pranzo di Ferragosto. Una buona giornata da Simone Spezia ed Anna Migliorati. E bentornati al GR Extra Large, prima puntata dopo l'estate, che apriamo parlando di Alitalia con una notizia che è arrivata poco fa, il no all'accordo. Parole che pesano, quelle arrivate a dare uno stop o almeno una brusca frenata al tavolo per il futuro di Alitalia, parole che arrivano da piloti e assistenti di volo, ma c'è anche un'altra notizia dell'ultima ora. Una notizia appena battuta dalle agenzie, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo processuale dopo la dichiarazione di insolvenza dell'Alitalia decretata dal Tribunale Civile della Capitale. Si tratta di un fascicolo per ora senza ipotesi di reato ed indagati, non escludo che gli inquirenti possano sentire anche come testimoni il commissario di Alitalia, Augusto Fantoni, e l'advisor dell'operazione Fenice, Corrado Passera. E andiamo allora al Ministero del Lavoro, dove le parti discutono e dove c'è per noi Andrea Viali. Andrea. Sì, Anna, la trattativa qui va avanti, non è stata interrotta e questa è comunque una notizia, però c'è da segnalare, come avete fatto voi, il no al nuovo contratto da parte dei sindacati che rappresentano i piloti e gli assistenti di volo, in particolare il nuovo contratto che è stato presentato questa mattina da Rocco Sabelli, che è l'amministratore delegato della compagnia aerea italiana che rileverà gli asset di Alitalia. Si tratta di un contratto collettivo unico per tutti i lavoratori, quindi che passeranno alla nuova Alitalia. È un contratto che è anche molto diverso, in forte discontinuità con quello attuale. Ci sono di fatto meno indennità, stipendi maggiormente legati alla produttività, ma anche maggiore mobilità dei dipendenti che dovrebbero essere reimpiegati nelle intenzioni della CAI, dove servono a prescindere dalla loro residenza. È un contratto, ha detto Sabelli presentandolo, che poggia su quattro pilastri che sono competitività, flessibilità, costi e relazioni industriali. La sua proposta però è stata di fatto giudicata irricevibile da 5 delle 9 sigle sindacali che prendono parte oggi a questo incontro. Si tratta di ANPAC, Unione Piloti, Avia, ANPAV e SDL, che come dicevamo rappresentano soprattutto assistenti di volo e piloti, secondo le quali questa discontinuità con il passato di cui parla Sabelli per il nuovo contratto non si può tradurre in una mortificazione dei lavoratori. Per questo dicono serve una profonda riflessione da parte della CAI, uno sforzo serio se si vuole arrivare ad una soluzione positiva. Questo in attesa che sul nuovo contratto si pronuncino probabilmente nei prossimi minuti anche i sindacati più importanti, CGL, CISL, UIL e UGL. Nessuno comunque al momento ha lasciato il tavolo della trattativa qui al Ministero del Lavoro, di fronte al quale si sono riuniti a partire da questa mattina anche molti dipendenti, soprattutto assistenti di volo, tra di loro anche molti precari, che stanno chiedendo ai loro rappresentanti sindacali di non firmare questo nuovo contratto che ritengono molto peggiorativo rispetto al passato. Grazie Andrea Viali. Come dicevi tu, le trattative vanno avanti e naturalmente chiedici la linea se ci saranno altri aggiornamenti nel corso del giornale. E ora parliamo di una memoria che a 65 anni di distanza dai fatti fatica ancora ad essere condivisa. 8 settembre del 43, poco dopo le 19, ecco le parole che gli italiani sentirono alla radio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, la richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Era l'annuncio dalla voce dell'ammiraglio Pietro Badoglio dell'armistizio firmato il 3 settembre. Di fatto una resa, due settimane dopo Mussolini e i suoi fondavano la Repubblica Sociale Italiana, estremo tentativo di salvare il regime fascista. Ma la memoria di tutto questo, come dicevamo, fatica ancora ad essere condivisa. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Che succede oggi 8 settembre? Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Una polemica, quella sulle dichiarazioni di Alemanno e quelle relative ad oggi, alla memoria dell'8 settembre, che si è allargata in poche ore al ventennio e alle scelte fatte dalle generazioni di allora di fronte al dramma della Seconda Guerra Mondiale. Le parole del sindaco di Roma sul fascismo hanno però già una conseguenza. L'ex numero uno della capitale Veltroni ha deciso di dimettersi dal comitato per il museo della Shoah. Per Veltroni sarebbe inaccettabile restare in un organismo in cui siede chi non condanna in modo inequivocabile il fascismo e le leggi razziali. Mi auguro che Veltroni ci ripensi, ha detto lo stesso sindaco Alemanno, che sul fascismo ha poi spiegato: condanno senza esitazione l'esito liberticida e antidemocratico di quel regime. Alemanno è intervenuto questa mattina alla cerimonia per il 65esimo anniversario per la difesa di Roma a Porta San Paolo, presente il presidente della Repubblica Napolitano, che ricordando l'8 settembre del 43, giorno dell'armistizio, ha invitato tutti i cittadini a rafforzare la memoria della resistenza ed ha sottolineato Napolitano la scelta di chi quel giorno optò per l'antifascismo. Un distinguo ricordando l'8 settembre lo ha fatto invece il ministro della difesa La Russa, che citando chi scelse la Repubblica Sociale di Salò ha detto: anche loro combatterono credendo nella difesa della patria. È tutto. Grazie Vincenzo, c'è una vignetta oggi di Maramotti sull'Unità che mette insieme questioni fiscali e queste stesse questioni delle quali abbiamo parlato finora, ossia l'accorpamento di una serie di imposte comunali previsto dal federalismo fiscale, si è parlato di una nuova ICE. Ebbene, ci sono due persone che parlano, la prima dice all'altra: tornerà peggio di prima, però non si chiamerà più ICI, e l'altro gli risponde: poi cambiamo nome anche al fascismo. Memoria dunque più o meno condivisa, il commento di Daniele Biacchessi. A volte la memoria viene dimenticata nei cassetti della storia, ma altre volte ritorna e lascia delle tracce. 15 luglio 1938, sul Giornale d'Italia esce il Manifesto degli Scienziati Razzisti, con un titolo eloquente: Il fascismo e i problemi della razza. Viene poi ripubblicato sul numero 1 della rivista La difesa della razza il 15 agosto 1938. È contenuta la prova approvata del legame tra fascismo e leggi razziali. C'è scritto: «La esistenza delle razze umane non è già un'astrazione nel nostro spirito, ma corrisponde ad una realtà materiale percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici, che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistano razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti. Questa è la storia, che può essere naturalmente interpretata ma non stravolta, perché in gioco c'è la credibilità istituzionale e il rapporto soprattutto tra Stato e nuove generazioni, che poco sanno di Shoah solo perché i libri di testo dedicano solo poche pagine alla storia contemporanea. E dimenticare sarebbe ancora più grave». Extra Large torna dunque dopo la pausa estiva, ma non dimentichiamo le promesse che vi abbiamo fatto. A luglio ci eravamo lasciati così. Torneremo l'8 di settembre e vedremo. Vedremo se avranno funzionato i militari nelle città per garantire l'ordine pubblico. Vedremo che cosa sarà accaduto nelle discariche di Napoli. Vedremo quanti migranti clandestini saranno sbarcati sulle nostre coste. E vedremo se ci sarà un clima politico più sereno per avviare le riforme. E vedremo se i prezzi continueranno a salire. E allora vi raccontiamo com'è andata con i militari nelle città. 93 arresti per furti, scippi, rapine, violenze e spaccio, 263 denunce, 24.700 persone identificate, di cui 7.000 stranieri. È il bilancio del primo mese di pattugliamenti misti soldati forze dell'ordine. Lo ha reso noto il 4 settembre scorso a Verona, sede del primo riscontro dell'operazione Strade Sicure, il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che non ha escluso per i prossimi mesi un aumento del contingente. Noi proseguiremo questa iniziativa, come dice la legge, per 6 mesi e poi potremo proseguire per altri 6 mesi, ma se i risultati saranno questi, io credo che continueremo aumentando anche il contingente. Come previsto, i soldati girano a piedi, in divisa, nei quartieri più a rischio delle 21 città scelte dal governo, tra le quali oltre a Verona figurano Roma, Milano, Torino, Napoli, Padova e Palermo. Dopo gli annunci e le polemiche sulla militarizzazione delle città, siamo andati a verificare sul campo cosa ne pensano i cittadini che li trovano ogni giorno sotto casa. A Milano, fulcro del piano sicurezza, 400 militari in tutto, in Viale Monza e via Padova, il 4 agosto scorso, i primi soldati in pattuglia furono salutati dagli applausi. E ora sentiamo le voci raccolte da Marco Lignana. Da quando ci sono i militari sta molto meglio. Il senso di sicurezza e di tranquillità è aumentato, indubbiamente. Vero anche che, fondamentalmente questa era la zona di spaccio, si sono spostati sulle bilaterali, però molti sono anche spariti. Sono contenta che ci siano i militari, assolutamente. È cambiata tantissimo la via, sia Viale Monza, io ci lavoro, ci sto 10 ore al giorno, sia soprattutto la via Padova. Meglio o peggio di prima? Uguale, c'è meno spazio, Poi di meno ce n'è, ma si è messi nelle vie. Io torno a casa alle 11 perché lavoro fino alle 11 in Piazzale Loreto, sono tranquilla. Per Roma, 200 soldati, ma lontani dal centro per volere del sindaco Alemanno, abbiamo scelto Battistini, capolinea della metro A, quartiere Boccea, periferia ovest della capitale. Sentiamo le voci raccolte da Savino Gallo. Sicuramente la zona è molto più tranquilla, molto più serena da quando c'è l'esercito. Direttamente la differenza tra prima e dopo in questo momento non si nota. Certo, la loro presenza comunque fa qualcosa, io li vedo anche abbastanza attivi. Non penso sia cambiato assolutamente nulla, anzi c'è un senso di fastidio, almeno per quanto mi riguarda, ogni volta che prendo la metro e di tristezza. Sicuramente è cambiato, però ti fa pensare ancora di più che c'è un clima di grossa tensione. Ce n'era bisogno? Era ora, perché se la cosa. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole, 24 ore. Il Festival del Cinema di Venezia ha il suo vincitore, ma chi vince in sala? Allora, ci sono i primi dati su come sono andate le cose al botteghino, e da Venezia al botteghino è sbarcata anche la nostra Marta Cagnola. Buongiorno. Buongiorno. Beh, le prime uscite veneziane sconvolgono gli equilibri della classifica di settimana scorsa, però bisogna dirlo subito, solamente dal secondo posto in giù, perché Kung Fu Panda è intoccabile sulla vetta della top 10 dall'alto dei suoi quasi 3 milioni di incasso del fine settimana, 10 milioni di euro totali in 10 giorni di programmazione, ed è veramente tanto. Intanto però guardiamo i film veneziani. Secondo i dati di cinecittà.com, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek sale direttamente al secondo posto della top 10, davanti ad esempio a film molto attesi come X-Files, Voglio crederci e The Cameron Pie. Secondo i dati di Cinetel si posiziona al terzo posto, ma insomma poco cambia. Un giorno perfetto è il film più visto tra le uscite veneziane. Poi al sesto posto Pappi Corsicato con Il seme della discordia, e poi al nono la sorprendente commedia Pranzo di Ferragosto, l'opera prima del Leone del futuro Gianni Di Gregorio. Una media di copie per sala, che è molto importante, il numero degli incassi rapportato alle sale in cui è uscito. Una media di copie per sala nei primi giorni di programmazione, seconda solo a Kung Fu Panda. La casa di distribuzione del film aveva infatti deciso di aumentare gli schermi da 14 a 40. Non entra tra i primi 10 l'ultima opera di Marco Bechis, La terra degli uomini rossi, in 11ª posizione, però se siete curiosi di sapere quali saranno le prossime uscite, allora settimana prossima, questo venerdì, il film di Pupi Avati, Il papà di Giovanna, e la divertentissima commedia Macian di Uberto Pasolini. Venerdì 19, Burn After Reading, il film dei fratelli Coen con George Clooney e Brad Pitt, che era stato il film d'apertura, e poi Parada di Marco Pontecorvo. Se invece volete sapere quando uscirà Il leone d'oro, The Wrestler, con Mickey Rourke, armatevi, pazienza, perché sarà distribuito dalla Kired, udite udite, solo a febbraio 2009. Grazie a Marta Cagnola. Ma c'è un'ultima ora? Sì, c'è un aggiornamento che riguarda la Serie A, il calcio, o meglio il tifo violento. C'è l'obbligo al Napoli di giocare tutte le gare con le curve A e B chiuse agli spettatori fino al 31 ottobre prossimo. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo gli incidenti in occasione di Roma-Napoli, insieme ad un'ammenda di 10.000 euro. Un mese fa vi raccontavamo dell'inizio delle Olimpiadi, oggi è arrivata la prima medaglia azzurra a Pechino nelle Paralimpiadi. Torniamo tra poco, vi racconteremo tutto. Le 13:19, extra large con le notizie di oggi. I piloti e gli assistenti di volo contro il piano per Alitalia, la proposta è irricevibile, dicono durante un incontro con Rocco Sabelli, l'amministratore delegato della compagnia aerea italiana che raccoglie l'accordata di imprenditori. Nell'anniversario dell'armistizio esplode uno scontro politico, il ministro La Russa ricorda i caduti di Salò, Napolitano che ci si oppose alle... la Repubblica Sociale è un simbolo della resistenza e dopo le parole di Alemanno sul fascismo Veltroni lascia il comitato per il Museo della Shoah. Gli Stati Uniti nazionalizzano i due colossi dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac, le borse festeggiano con rialzi diffusi. Incidente probatorio per la Sanitopoli abruzzese, la difesa del turco vuole la ricusazione del GIP, tutto rinviato a domani. Iniziano le Paralimpiadi, prima medaglia italiana, bronzo nel ciclismo. E buongiorno al nostro ospite di oggi, Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico da Pechino, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Intorno alle 18 ore italiana di sabato, due settimane dalla chiusura delle Olimpiadi, si è aperta la 13ª edizione delle Paralimpiadi. La più grande della storia, avevano annunciato gli organizzatori, noi dobbiamo dire innanzitutto che già porta bene il nostro collegamento, è arrivata oggi proprio la prima medaglia, Pancalli. Sì, beh, devo dire che è un collegamento fortunato perché è arrivata poche ore fa, ha sbloccato il nostro medagliere auspicando che possa essere foriera di altri successi nei prossimi giorni. Comunque ad ogni modo veramente una Paralimpiade di tutto rispetto, non soltanto per i numeri, 4.200 atleti, 150 paesi presenti, ma soprattutto per il tasso e il livello tecnico e agonistico al quale stiamo assistendo, che è veramente spaventosamente alto. Chi ha vinto però lo volevamo sapere da lei, Pancalli. Ha vinto il nostro grandissimo Triboli nel ciclismo su pista, già medaglia di bronzo Atene, che ha confermato il suo risultato di Atene. Fabio è un ragazzo eccezionale, appartiene al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e devo dire che ha fatto qualcosa di grande, però insomma a altre gare mi aspetto ancora di più. E quante ne attendiamo di medaglie? Su chi dobbiamo puntare l'attenzione? Guardate, noi avevamo fatto una previsione e abbiamo fatto una previsione che ovviamente è una previsione sulla carta, sulla base dei risultati che i nostri atleti hanno conseguito nelle varie rassegne ridate continentali negli ultimi anni. Abbiamo previsto 15 medaglie. Io spero di poter non essere smentito e comunque, se così fosse, di essere smentito al rialzo e non al ribasso. Allora Pancalli, si dice spesso che le Paralimpiadi sono un'occasione anche per parlare degli atleti paralimpici e quindi dell'handicap, ma in realtà per i vostri atleti contano è come le medaglie, cioè quello è il punto fondamentale. Ma assolutamente, questo è un evento agonistico e nulla più, poi casualmente, incidentalmente i protagonisti sono degli atleti con disabilità, però è giusto ed è doveroso che sia così, se attraverso questo movimento grandioso che oramai in tutto il mondo si sta diffondendo, anche in Italia stiamo crescendo tanto, è possibile lanciare messaggi che vadano al di là ovviamente dello sport e del sacrosanto utilizzo dello sport come strumento di integrazione, come strumento di inclusione sociale per il rispetto dei diritti delle persone disabili, ben venga insomma. Senta, Pancalli, la vicenda Pistorius, quanto ha cambiato lo spirito paralimpico? Quanto l'obiettivo è gareggiare con i normodotati? È davvero quello? Diciamo che io ho sostenuto poi a suo tempo la battaglia di Oscar, ha cambiato poco il movimento paralimpico, diciamo che Pistorius è l'espressione di dove è arrivato il movimento paralimpico. Ciò detto, è evidente che le polemiche sono sempre ben accolte quando possono portare ad un approfondimento dei problemi, all'individuazione di soluzioni migliorative per il futuro, perché non vi crediate che la polemica, così come c'è stata per i giochi olimpici, non ci sia qui alle Paralimpiadi all'interno di atleti che contestano le protesi di Pistorius. Per cui insomma le polemiche ben vengano, anche perché detta internos, che poi tanto internos non è visto che siamo in onda, le polemiche ci consentono anche di accendere sempre più i riflettori su un movimento che è eccezionale, che è fatto di protagonisti eccezionali. Pistorius è uno dei milioni di protagonisti eccezionali che ogni giorno e quotidianamente in tutto il mondo da disabili fanno sport. Grazie Pancalli, grazie davvero. Detto internos, ci aspettiamo altri aggiornamenti da lei nelle prossime settimane su come vanno queste Paralimpiadi e altre medaglie. Mi auguro di poterveli dare con grande piacere. Grazie, buona giornata. Lasciamo Luca Pancalli a Pechino, noi voltiamo pagina. 2 mesi dall'arresto di Ottaviano Del Turco, oggi l'incidente probatorio nella vicenda della cosiddetta Sanitopoli abruzzese. La difesa dell'ex presidente della regione vuole ricusare il GIP, ci sono anche novità dell'ultima ora. Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Come detto, è stato aggiornato a domani l'incidente probatorio per l'inchiesta sulla Sanitopoli abruzzese. Il GIP Maria Michela Di Fine si è riservata di decidere sulle numerose eccezioni presentate dalla difesa, tra le quali la sua personale incompatibilità a presiedere. Si chiude quindi senza vincitore né vinti il primo tempo di questa che era un'attesa sfida a quattro occhi tra l'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, suo grande accusatore, l'imprenditore Vincenzo Angelini, l'uomo che con le sue rivelazioni lo ha portato in carcere lo scorso 14 luglio con l'accusa di corruzione. La vicenda è quella nota appunto della Sanitopoli abruzzese con la sua maxi tangente da 15 milioni di euro che Angelini ha detto di aver pagato Del Turco e ad altri dirigenti regionali, assessori e direttori per ottenere appalti. Stamattina Del Turco è arrivato presto, insieme ai suoi difensori appariva sereno. Sentiamo cosa ha detto arrivando. Molte domande e spero di poter dare anche finalmente dopo 2 mesi anche un po' di risposte. In realtà per ora il confronto è stato solo tecnico con gli avvocati degli indagati che hanno presentato numerose eccezioni, come abbiamo detto, in particolare fin dai giorni scorsi erano stati annunciati rilievi di incompatibilità del GIP Maria Michela Di Fine perché, dice la difesa, il magistrato ha già firmato l'ordinanza di custodia cautelare degli indagati dichiarandosi convinta della loro colpevolezza. Uscendo dall'aula Del Turco ha detto di aver trovato dimagrito e teso il suo accusatore, ha poi aggiunto che tornerà ora nella sua casa di Collelongo dove si trova agli arresti domiciliari. E per ora è tutto. Grazie Paolo per questi aggiornamenti, siamo in chiusura di questa parte, ma prima di chiuderla ci ascoltiamo, ritorna con XL anche l'appuntamento del lunedì con la pausa pranzo con il nostro gastronauta Davide Paolini, sentiamo dove ci porta oggi. Le città riprendono il ritmo normale e riprende il mezzogiorno di cuoco, alla ricerca sicuramente nei grandi centri di dove poter pranzare in maniera magari veloce e mediamente veloce, diciamo così, a un prezzo tranquillo e sicuramente menù anche di qualità. Ebbene, da pochi giorni è aperta a Pavia, all'Hotel Moderno, il Bistrò Bartolini, un posto adatto dove appunto pranzare, ma anche cenare ovviamente. Ebbene, in questo bistrò si può ordinare un pranzo piatto unico, acqua e caffè compresi, a 20 euro, oppure un menù padella d'oro con gran piatto di antipasti, ravioli farciti con ricotta e spinaci, guancetta croccante, crema bruciata all'italiana, acqua, caffè coperto compresi, 40 euro. Si può scegliere vino a bicchiere, ma ovviamente c'è anche una carta dove si possono scegliere tantissimi piatti, a cominciare da una tartare di manzo piemontese, per passare poi a spaghetti al peperone e rosmarino e via dicendo. Quindi il posto giusto dove pranzare, ma sicuramente anche alla sera, visto così il posto in pieno centro della città e vista anche l'eleganza dell'Hotel Moderno, si può passare anche una buonissima serata. I consigli del nostro gastronauta, noi torniamo tra poco per fare il punto sui mercati che, come sentirete in Che Borsa Fa, vanno decisamente bene. Ready? 10:32 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. I piloti e gli assistenti di volo contro il piano per Alitalia, la proposta è irricevibile, dicono durante un incontro con Rocco Sabelli, amministratore delegato della compagnia aerea italiana che raccoglie la cordata di imprenditori. Nell'anniversario dell'armistizio esplode uno scontro politico, il ministro La Russa ricorda i caduti di Salò, Napolitano, chi si oppose alla Repubblica Sociale è un simbolo della resistenza. E dopo le parole di Alemanno sul fascismo, Veltroni lascia il comitato per il Museo della Shoah. Dopo lo stop alle trasferte, la chiusura delle curve. Fino al 31 ottobre i tifosi del Napoli non vedranno la squadra nemmeno nel loro stadio, lo ha deciso il giudice sportivo. Gli Stati Uniti nazionalizzano i due colossi dei mutui, Fannie Mae e Freddie Mac. Le borse festeggiano con rialzi diffusi, critica la stampa americana. Pagheranno comunque i cittadini. Nuove morti bianche. A Brescia due operai perdono la vita schiacciati da un muro. Aprono alcune scuole in Lombardia ed è scontro tra la Gelmini e Bossi sul maestro unico. Il senatore contrario, il ministro replica, è confuso mentalmente. L'avete sentito poco fa in Che Borsa Fa? I mercati finanziari stanno andando particolarmente bene e brindano al salvataggio effettuato da parte del tesoro americano di due colossi in realtà già semipubblici, Fannie Mae e Freddie Mac, due colossi dei mutui. Di fatto una nazionalizzazione, forse il segnale insomma che la crisi era decisamente molto profonda. Il segretario al tesoro Henry Paulson ha annunciato un piano appunto in base al quale il governo prende il controllo delle due agenzie in crisi, ma fa sapere poco fa in un'intervista che non sa effettivamente quanto questo piano costerà. Gigi Donelli in studio con noi per fare un pochino di rassegna stampa estera su come i giornali trattano questa vicenda. Gigi. Sì, la stampa americana naturalmente ora deve spiegare agli americani perché il conto alla fine saranno loro a doverlo pagare. Dunque la stessa ragione per cui la borsa festeggia è che c'è qualcuno che pagherà e pagherà chi paga le tasse. Allora Los Angeles Times spiega, per diciamo anche addolcire questa pillola amara, che di fatto un fallimento di questi due colossi semipubblici impedirebbe agli americani di acquistare nuove case, di accendere prestiti per l'automobile, di avere il ricorso al credito al consumo, di cui una grande fetta del paese, e gli Stati Uniti sapete in questo è in testa, si alimentano continuamente. Quindi come dire, c'è una sorta di ricatto del benessere, dobbiamo pagare, dice Los Angeles Times, perché altrimenti le conseguenze sarebbero pesantissime. Il New York Times va più diretto, il titolo anche divertente, Fanny, Freddy e tu, richiamando delle vecchie commedie degli anni 60, dici Fanny e Freddy hanno creato una serie di complesse problematiche, vanno rassicurate, e chi può rassicurare i mercati internazionali rispetto a questi due colossi? Beh, sei tu, cittadino americano, che devi attraverso il finanziamento delle tasse rassicurare gli investitori internazionali che acquisteranno le quote e quindi sosterranno e pagheranno i debiti di queste due grandi strutture, proprio perché tu possa continuare a sviluppare il tuo stile di vita. Direi che almeno un'altra segnalazione la merita e viene dal Wall Street Journal. I politici, o meglio, i due candidati alla presidenza, come vedono la faccenda? Beh, i due colossi sono considerati storicamente vicini ai democratici e in questo senso gli attacchi vengono, le punzecchiature riguardano naturalmente più Obama. Entrambi di fronte alla notizia non hanno potuto far altro che dire è stato giusto il primo intervento necessario. Dopodiché entrambi si riservano di spiegare nei prossimi giorni, in prossime interviste, perché insomma a tutto questo non ci si doveva arrivare, ma in fondo questo l'avevano capito soprattutto i cittadini americani. È in qualche modo rassegna stampa anche questa, perché il segretario al tesoro americano ha lasciato un'intervista poco fa all'emittente CNBC, Bloomberg ha diffuso alcuni passaggi e lui dice non so quanto costerà allo Stato attuare il salvataggio, non è stata fatta alcuna analisi specifica al riguardo. La decisione, ha detto, non è stata influenzata da motivi politici in vista delle elezioni presidenziali, ha aggiunto che i due colossi continueranno a finanziare i prestiti immobiliari, di sicuro però parte del lavoro sporco, Gigi, questa amministrazione l'ha fatta per i candidati che si troveranno la situazione in parte risolta. È chiaro che dalla reazione di entrambe non arrivano degli attacchi che potevano essere immaginabili, perché? Per quel discorso fatto in fondo in maniera molto chiara dal New York Times, c'è uno stile di vita in gioco. Oltre a miliardi di dollari che sono, come spesso accade, talmente tanti che possono in qualche modo essere misurati quasi fossero un livello teorico. E grazie a Gigi Donnelli per averci aiutato a capire un po' come la stampa, in particolare quella americana, sta affrontando anche questa parte della crisi finanziaria. Noi torniamo in Italia, Anna, con la cronaca. Con la cronaca e con un appuntamento atteso e in programma di oggi, vale a dire la ripresa delle scuole, o almeno sono partiti alcuni istituti della Lombardia, con tanto però di polemica politica. Ricordiamo, tra parentesi, che le altre regioni inizieranno il 15 settembre, ad eccezione di Bolzano, dove le scuole apriranno tra due giorni il 10, della Sicilia, dove sui banchi si tornerà per ultimi il 17. Oggi il ministro dell'istruzione ha partecipato all'apertura dell'anno in una scuola elementare di Segrate, in provincia di Milano, e allora sentiamo il racconto di questa cerimonia. Speciale per i 220 bimbi della scuola elementare Enrico Fermi di Segrate. Il primo giorno di lezioni lo festeggiano alla presenza del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Fuori la protesta dei sindacati contro la riforma del maestro unico e i tagli. Dentro palloncini tricolore e grembiule per una prima classe, una nuova divisa in via sperimentale, come suggerito dalla stessa Gelmini. Casacca rossa e pantaloni blu, gonna per le bambine. Un'alunna recita la poesia di benvenuto per i nuovi. Carissimi bambini, quale segno del vostro ingresso a scuola vi doniamo questo albero. È un alberello di 6 anni, alla vostra stessa età. Il ministro e il sindaco di Segrate improvvisano l'appello. Alessandro Berettera. Elena Giuliana Brusa. Simone. Poi arriva il momento di rispondere alle polemiche, come quella di Umberto Bossi, che ha criticato il ritorno al maestro unico. Ieri la Gelmini aveva parlato di confusione mentale del collega di governo. Oggi sceglie la moderazione. Non voglio fare polemiche, è una scelta che il Consiglio dei Ministri ha già approvato. In ogni caso il maestro unico entrerà in vigore dal 2009, quindi c'è tutto il tempo per spiegare nel dettaglio questo provvedimento, nel quale io credo, sono convinta che risponda ad un'esigenza pedagogica. In mattinata è arrivato l'appoggio del premier Berlusconi al lavoro della Gelmini. Paola Nania, GR24, Sole 24 Ore. E altra notizia di oggi arriva dal mondo della Chiesa. Monsignor Giuseppe Bettori, dal 2001 segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, è stato oggi nominato dal Papa arcivescovo di Firenze. Andiamo nel Bresciano, perché oggi ci sono state due nuove morti bianche. Sono due cognati le vittime dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in una cascina a Ono San Pietro, comune della Val Camonica, nel Bresciano. Remo Vaira, 53 anni, oltre a lavorarci ci abitava a Ono San Pietro, mentre Giovanni Angeli, di 64 anni, era di Capodiponte. I due uomini, facevano i muratori, sono stati travolti dal crollo di un muro mentre lo stavano demolendo. Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano in campagna e stavano appunto demolendo un muro perimetrale che, cadendo, li ha uccisi. Sul posto sono intervenuti e sono ancora al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri ed il 118. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Gli orfani di Harry Potter avranno di che consolarsi se J.K. Rowling ha detto stop alla saga del maghetto. A dicembre uscirà una sua raccolta di racconti, Le fiabe di Beda il Bardo, sia il libro che Silente, Albus Silente, uno dei personaggi prima di morire, lascia in eredità ad Hermione. Ma volendo potremmo anche consolarci con ben altro, con la letteratura di casa nostra. I libri della scrittrice italiana di fantasy più venduta nel mondo si chiama Licia Troisi, a 27 anni ha già venduto quasi 1 milione di copie in Italia. L'ultima fatica, La ragazza del drago, è il primo di 5 volumi. L'ha incontrata al Festival Letteratura di Mantova Alessandra Tedesco, chiedendole tra l'altro chi siano i suoi lettori. Principalmente sono ragazzi di età compresa tra i 13 e i 25 anni, però in realtà i miei libri sono abbastanza trasversali, ci sono sia lettori più giovani, proprio qui a Mantova ho incontrato una bambina di 8 anni che leggeva i miei libri, leggeva La ragazza drago, ma anche persone più grandi. Di recente ad esempio è capitato di ricevere la mail di una signora di 62 anni, quindi insomma. Quando si parla di fantasy è inevitabile fare un riferimento a Harry Potter. Per te che cos'è? Una fonte di ispirazione, un esempio o lo odi? No, mi piace, è stata una piacevolissima lettura principalmente. I libri di Harry Potter mi sono piaciuti parecchio, poi lei l'ammiro soprattutto per la capacità di mantenere sempre il controllo sulla trama, nonostante l'arco narrativo sia lunghissimo, insomma sono 7 libri e ci ho messo svariati anni per completarli, quindi diciamo mi avvicino alla Rowling soprattutto come lettrice. In genere a tutti gli altri scrittori mi avvicino principalmente come lettrice, poi ovviamente ci possono essere anche delle cose che loro scrivono che mi piacciono molto, quindi diciamo queste invidie positive, nel senso che leggo qualcosa che mi piace molto e invidio la capacità di quell'autore di saper coinvolgere oppure trattare in maniera particolarmente buona una determinata tematica. Gli orfani di Harry Potter possono quindi rifugiarsi nei tuoi libri ora? Ah, non lo so, insomma, spero che anche loro leggano i miei libri. C'è la viabilità, adesso ci ritroviamo tra pochissimo per parlare di una nuova proposta in arrivo per quanto riguarda le unioni di fatto. A tra poco. :44, GR extra large con le notizie di oggi. La proposta è irricevibile, così i piloti e gli assistenti di volo contro il piano per Alitalia, lo dicono durante un incontro con Rocco Sabelli, amministratore delegato della compagnia aerea italiana. 8 settembre, anniversario dell'armistizio, esplode lo scontro politico. Il ministro La Russa ricorda i caduti di Salò. Napolitano, chi si oppose alla Repubblica Sociale, un simbolo della resistenza. E dopo le parole di Alemanno sul fascismo, Veltroni lascia il comitato per il Museo della Shoah. Dopo lo stop alle trasferte, la chiusura delle curve. Fino al 31 ottobre i tifosi del Napoli non vedranno la squadra nemmeno nel loro stadio. Lo ha deciso il giudice sportivo, che ha stabilito anche 10.000 euro di ammenda. Gli Stati Uniti nazionalizzano i due colossi dei mutui, Fannie Mae e Freddie Mac. Le borse festeggiano con rialzi diffusi, critica la stampa americana, pagheranno i cittadini. L'uragano Ike investe Cuba, 1.000.000 le persone evacuate, tra 1.500 e 2.000 gli italiani presenti sull'isola. Aprono alcune scuole in Lombardia ed è scontro tra la Gelmini e Bossi sul maestro unico, il senatore contrario e il ministro replica, è confuso mentalmente. Ripartire dopo Edico per dare una legge alle coppie di fatto o alle unioni di fatto. Il ministro Brunetta questa mattina è stato nostro ospite a viva voce, ha annunciato una proposta a cui sta già lavorando in concreto con il ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi. Una sorta di codice di questi diritti di reciprocità, cioè mettere insieme i diritti e i doveri di reciprocità per le convivenze che non abbiano nulla a che fare con il sesso. Perché, come dire, lo Stato non deve entrare nella camera da letto, questa almeno è la mia opinione, e che non abbiano nulla a che fare con la famiglia, con un'altra clausola. Tutta questa reciprocità deve avvenire senza oneri per lo Stato, perché gli oneri dello Stato devono essere finalizzati innanzitutto e solamente alla tutela, alla valorizzazione, alla qualificazione e alla crescita del nucleo familiare come definito dalla Costituzione. E di certo farà discutere la proposta. Intanto però sempre il ministro della funzione pubblica sta lavorando alla seconda fase del suo progetto già attuativo, non solo fannulloni, il ministero ha già selezionato alcune eccellenze nella pubblica amministrazione che funziona, l'elenco è sul sito del ministero e racconta alcune cose interessanti, ad esempio che è il Veneto a vantare il maggior numero di buone amministrazioni, mentre tra le regioni amministrative in senso proprio la palma va al Piemonte, tra i comuni spiccano Firenze, La Spezia, Reggio Emilia e Venezia. E proprio a Firenze andiamo e da Firenze cominciamo raccontandovi una storia di pubblica amministrazione che funziona. Il comune di Firenze pare riuscito a realizzare l'obiettivo perseguito a parole da tanti uffici pubblici, utilizzare l'informatica per rendere davvero più efficiente la macchina amministrativa, tanto da guadagnarsi la citazione del ministero guidato da Renato Brunetta tra le 100 storie esemplari di buona pubblica amministrazione. In estrema sintesi, gli ingredienti della rivoluzione sono stati tre. Innanzitutto il progetto nazionale People, di cui il comune è stato capofila, una piattaforma informatica collegata a diversi canali, internet, sms, call center, chiosco informativi. Carlo Paolini, segretario generale del Comune di Firenze. Il cittadino ottiene i servizi in grandi settori dell'attività del Comune, sono i servizi demografici, i servizi fiscali, i servizi territoriali, le autorizzazioni e concessioni e poi i servizi alla persona. Il cittadino ottiene attraverso la piattaforma informatica in tempi rapidissimi il risultato che il cittadino si attende. Per far funzionare questo sistema, il Comune ha dovuto riorganizzare anche la propria macchina informatica interna, attraverso l'integrazione delle banche dati dei diversi uffici. Infine, ecco il terzo ingrediente, un centro servizi territoriali informatici comune a tutta l'area metropolitana. Il risultato è una piccola rivoluzione, dice Paolini. È come quando prima si andava dal negoziante, dal bottegaio, si compravano il formaggio, la pasta, tutto quello che si poteva comprare. Era sempre il negoziante che andava nei vari scaffali, nel retrobottega, eccetera, eccetera, e confezionava e preparava tutte queste cose. No, con questo sistema noi ci comportiamo al modello supermarket, nel senso che noi approntiamo tutti gli scaffali, tutti già pronti, in modo che ci sia il più di autoamministrazione possibile da parte dei cittadini. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Altro tema di cui molto si dibatte in queste ore è l'utilizzo del braccialetto elettronico per liberare le carceri. Più arresti domiciliari, questo sarebbe l'effetto dell'utilizzo del braccialetto elettronico per i detenuti e controllo a distanza. In Italia c'è già stata una sperimentazione che si è conclusa in maniera fallimentare. Dei 400 braccialetti acquistati ne sono stati usati 3 e uno dei 3 casi il detenuto è evaso. Perché? Perché questi braccialetti non prevedono collegamento satellitare, ma c'è un paese in Europa che li sta già usando ed è la Francia. E allora sentiamo come vanno le cose oltre Alpe. Poco meno di 4.000 detenuti e un trend in costante aumento. L'uso dei braccialetti elettronici in Francia ormai è una realtà rodata e per capire che funziona basta dire che le evasioni sono state solo una ventina, 20 evasioni dal 2000 ad oggi, ovvero da quando la misura è entrata in vigore. E viste queste cifre, il governo ha messo in campo una riforma che potenzierà l'uso del braccialetto, così la giustizia francese ricorrerà sempre di più alla sorveglianza elettronica, soprattutto in due casi, sui detenuti in attesa di giudizio e sui condannati a pene brevi. Stando alla riforma, infatti, il braccialetto verrà applicato a detenuti condannati a pene inferiori o uguali a 2 anni, oppure per i condannati al massimo a 5 anni, il cui residuo di pena non superi 2 anni. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ed è partito da Parigi il presidente francese Nicolas Sarkozy per arrivare a Mosca per discutere l'attuazione del piano di pace nel Caucaso. La Russia ha già fatto sapere però che domani avvierà contatti diplomatici con Ossetia e Abkhazia, le due regioni georgiane che vorrebbero l'indipendenza. E Mosca ha anche detto di essere contraria alla missione europea in Georgia. L'uragano Ike si è abbattuto nella notte sulle coste nord-orientali di Cuba. Oltre 1 milione di persone sono state evacuate, tra loro circa 10.000 turisti stranieri, sono 2.000 gli italiani in vacanza. Anche in Florida le autorità hanno proclamato lo stato di emergenza, la preoccupazione è alta anche a New Orleans, non solo per l'uragano Ike, ma per altri che arriveranno in questa stagione. Maria Chiara Grandis ha sentito il centro uragani di Miami, Jack Beven. Al momento non c'è nient'altro che sta accadendo nell'Atlantico. La tempesta tropicale Josephine è in mezzo all'oceano, ma per ora non abbiamo ragione di credere che stia raggiungendo la costa. Fino ad ora l'attuale stagione degli uragani è stata piuttosto attiva. Sono 10 le tempeste che si sono scatenate in queste settimane. Prevedevamo una stagione nella media ed è quello che si sta verificando. La stagione peggiore invece è stata nel 2005 con 28 diversi uragani e non possiamo certo dire di trovarci nella stessa situazione oggi. Gli uragani si formano quando si creano correnti d'aria sull'acqua calda dell'oceano, che dà energia all'atmosfera e fa sì che queste perturbazioni si intensifichino e si trasformino in tempeste tropicali. Quest'anno, nonostante non possiamo fare considerazioni generali finché la stagione non sia finita, sembra ci sia vento sufficientemente potente e acque dell'oceano abbastanza calde da poter ritenere presenti tutti gli ingredienti necessari alla formazione di uragani. E ora andiamo nel mondo arabo. Ritorna XL, ritorna anche la rassegna stampa araba a cura di Adib Fateh Ali. I maggiori quotidiani arabi di questa mattina aprono sulla frana avvenuta in un sobborgo della capitale egiziana, il Cairo. Al-Quds al-Arabi parla di decine di morti e in centinaia ancora sotto la macerie che chiedono soccorso tramite telefonini cellulari. Il giornale di Stato iracheno Al-Sabah annuncia che per il prossimo mese a Baghdad si terrà una conferenza allargata a cui parteciperanno 29 organismi internazionali e stati. Oltre a USA, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci sarebbe una partecipazione italiana a livello di ministro degli esteri. Negli Emirati, a sostegno di una campagna lanciata dall'emiro di Dubai per sostenere la cura a 1 milione di non vedenti, i giornalisti della TV satellitare Nur Dubai iniziano i telegiornali con gli occhi bendati. Interpellati da Sharq al-Awsat affermano: lo facciamo per sensibilizzare la gente. 13:53 minuti, non poteva mancare il nostro Dizio Radio. Nell'appuntamento di oggi di Dizio Radio faremo un po' indigestione incetta di termini anglofoni che mettono un po' dura prova la nostra pazienza, spamming, teleselling, telemarketing, non solo perché sono anglofoni ma perché riguardano dei fenomeni, diciamo, in certi casi nei nostri confronti di utenti un po' persecutori, un po' troppo insistenti. Tra l'altro proprio in questi giorni, a questo proposito, il garante della privacy ha emanato un provvedimento che dovrebbe un po' arginare questo fenomeno, ma per farci spiegare meglio il quadro vorrei intervenisse immediatamente Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore. Ben ritrovato Giuseppe. Ciao Roberta, buongiorno a tutti. Quindi di cosa si tratta e c'è modo in cui difendersi insomma da questa insistenza? Sì, le difese che in generale ci sono innanzitutto la possibilità sempre valida in ogni caso di dire no a chi ci manda pubblicità, anche se si è dato il consenso prima, anche se questo è lecito, quindi nei casi, nei rari casi in cui la telefonata o la mail ricevuta è lecita ci si può sempre opporre. Perché stiamo parlando di marketing selvaggio, in pratica di telefonate promozionali indesiderate, no? Questo sì, e qui bisogna distinguere appunto le telefonate con un operatore per le quali le regole sono un tantino più permissive, e invece quelle assolutamente vietate sono quelle in cui non c'è un operatore, c'è una telefonata preregistrata oppure una mail che arriva, un fax magari nel cuore della notte, un sms. In questi casi è rigidissima la normativa per dire che o c'è stata una preventiva informativa, il preventivo consenso, è sicuramente vietata questa pubblicità che riceviamo. Nel caso in cui invece ci sia un operatore, quindi la possibilità anche di dirgli non mi chiamare più, cancella il dato, smetti di chiamarmi, è un pochino più, c'è un pochino più di possibilità di farlo, e la deroga, l'unica deroga al consenso rilevante riguarda i casi in cui i dati siano raccolti da un elenco pubblico conoscibile da chiunque, però anche in questo caso non valgono to court, per esempio gli elenchi telefonici. Questo era valido fino al 2005, dopo il 2005 tutti noi abbiamo potuto eventualmente, chi ha voluto, dare il consenso per ricevere pubblicità, mentre chi non l'ha dato non può ricevere più pubblicità, il suo numero di telefono non può essere usato per inviare pubblicità. Ci siamo un po' rovinati con le nostre mani, ma senza sapere che queste sarebbero state le conseguenze, però speriamo che con questo provvedimento ultimo veramente si possa arginare, no, questa cosa? Sì, speriamo di sì, e comunque ecco, ciascuno può rivolgersi anche al garante denunciando le eventuali telefonate o email o mail ricevute, dicendo: ho ricevuto questa pubblicità, non avevo dato il consenso, e con un procedimento molto rapido si ottiene ragione, si ottiene anche il rimborso delle spese che si sostengono questa procedura. Quindi una difesa, una possibilità c'è. Grazie a Giuseppe Busia. Roberta Giordano vi dà appuntamento con Dizio Radio per il prossimo lunedì. Ci massacrano, dicono i piloti all'Italia, da loro e dagli assistenti di volo, un no al piano per l'azienda, irricevibile. Nell'anniversario dell'armistizio la memoria divide ancora, la Russa ricorda i caduti di Salò e Napolitano replica, chi rifiutò la Repubblica Sociale è simbolo della resistenza. Dopo le parole di Alemanno sul fascismo, Veltroni lascia il comitato per il Museo della Shoah. Addio alle curve, ai tifosi napoletani oltre alle trasferte è vietato anche il San Paolo fino al 31 ottobre, lo ha deciso il giudice sportivo. Inizia la scuola almeno in Lombardia, ma tra frizioni nel governo, Bossi contro il maestro unico, la Gelmini replica, è mentalmente confuso. L'America nazionalizza e il mercato festeggia, i colossi dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac diventano totalmente pubblici, borse in netto rialzo. L'uragano Ike arriva sulle coste cubane, 1 milione le persone evacuate, tra i 1500 e i 2000 gli italiani sull'isola. Finito il festival del cinema, il film di Ospetek è secondo al botteghino, grande successo anche in sala per il pranzo di Ferragosto. E si conclude così dunque la prima puntata di questa nuova stagione di Extra Large, che continuerà a raccontarvi le notizie della giornata anche domani, in regia Peter Bescapè, coordinamento di Daniele Biacchessi, un saluto da Anna Migliorati e da Simone Spezia. A domani. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Giancarlo Santalmassi.